capitano, che hai negli occhi il tuo nobile destino. Pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino? Capitano, che hai trovato principessa in ogni porto. Pensi mai al rematore che sua moglie crede morto. Itaca. La puntata zero. E forse l'ultima. Buon pomeriggio a tutti, radio ascoltatori di Radio Onda Rossa. Buon pomeriggio a tutti, la puntata zero del Valle, con una nuova edizione, tante cose nuove in questa nuova stagione e momento di trasformazione per questo collettivo. Solo noi siamo sempre gli stessi. O quasi, siamo felici di essere ritornati a viaggiare sulle onde di 87.9 su Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente. E soprattutto con un titolo, l'altro anno non avevamo un titolo, era un titolo strano, lungo. Radio Teatro Valle Onda Rossa. Valle Teatro Onda Rossa. Occupato. Occupato. Quest'anno siamo Itaca. Perché Itaca? Qualcuno lo vuole dire? Buonasera. Sì, salutiamo anche il nostro ospite messicano, il poeta Juan Carlos Madero. Juan García Madero, ben ritrovato. Un nostro caro amico. Perché si chiama Itaca? Ce lo vuole dire lei? Perché ora il Valle non sta in sua casa. E tenemos que volver, dobbiamo tornare a casa. E quindi dobbiamo tornare a Itaca. Vuole tradurre lei, dottore? Sì, adesso il Valle non ha una casa e deve tornare a casa, appunto, come Itaca, come Ulisse faceva con Itaca. E il Valle ora è pieno di, come si chiamano, dei proci. Adesso il Valle è pieno di proci. Proci. Perché sono quei principi arroganti e viziati che fanno come se fossero a casa loro. A casa certo. Propria. Quindi noi dobbiamo tornare e mandarli via. Ma noi abbiamo una spia e alla fine della trasmissione ve la riveleremo. Perché sì, nessuno lo sa, ma dentro al Valle abbiamo lasciato qualcuno. Qualcuno che è rimasto a Itaca. Alla fine della trasmissione ve lo presenteremo. Sì, sta nella buca. Faremo un collegamento. Sì, diciamo, l'abbiamo lasciato nella buca dell'orchestra. Diciamo che là sotto si è fatta la sua casetta. Sta bene, eh? Non è che l'abbiamo rinchiusa o soffre di claustrofobia. È una donna. È una donna, certo che è una donna. E poi è rimasta per sua scelta là dentro. È rimasta per sua scelta per rimanere a casa. E noi ci collegheremo con lei alla fine della trasmissione. Sì, perché mentre appunto il Valle occupato è uscito dall'occupazione, diciamo costretto dai proci ad uscire, e là invece dentro la buca dell'orchestra è rimasto un personaggio. No, è difficile. Chi è che rimane a Itaca mentre Ulisse sta in viaggio? Vabbè, lo scoprirete. Se ma volete è molto telefonarci facile. E indovinare, siamo qui. Allora, raccontiamo un po' insieme al nostro poeta che cosa sarà questa trasmissione. Vogliamo dare dei punti di riferimento a chi ci sta ascoltando, perché a saperlo. Allora, sapete che io ero molto perplesso rispetto a tutta la vicenda del Valle, però questa cosa di fare la trasmissione del Valle occupato senza il Valle occupato mi sembrava una cosa molto poetica e molto inutile. Quindi ho detto, sicuramente io vado. Una poesia crudele ma sempre poesia, cioè una, come si dice, fare qualcosa che non serve praticamente a niente perché il Valle non c'è più, però la trasmissione rimane. Quindi questo è proprio una poesia. Scusa, ma Madero, non sono proprio inutile. D'accordo con te, non è vero che il Valle non c'è più, la smettiamo di dire questa Valle cosa, non c'è più il Valle occupato, la comunità intorno al Valle ancora c'è, se no non staremmo qui. Vuol dire che il Teatro Valle è chiuso, questo vogliamo, voleva dire questo. Il Teatro Valle è in mano ai proci, no? Sì, ed è una cosa molto inutile questa che stiamo facendo, infatti pure quando stavamo salendo la frase che risuonava di più era, non so se parlo bene romano, no? Però diceva, ma che cazzo stiamo a fa? No, una cosa del genere, che è uno slang per dire, insomma, esprimeva un po' di dubbi, no? Certo, su questa certo, cosa che stiamo facendo, no? In questo senso. Però a me piace perché è una cosa, una poesia crudele, fare una trasmissione del Valle occupato quando il Valle non è più occupato. Mi gusta tantissimo. Comunque è pazzesco il contributo che García Madero darà a questa trasmissione in quanto il maggiore esponente messicano del realismo viscerale. No, e comunque García Madero è ci piace averlo qui in studio, in trasmissione, perché appunto dà una delle voci del Valle, che il Valle non era unico, una grande ala, ma era fatto da tanti piccoli pezzetti, tanti piccoli, no? Sì, ma di che cosa parleremo in queste puntate? Allora, mi piacerebbe ricordare che vorremmo tappa dopo tappa, puntata dopo puntata, affrontare tutte quelle che sono state metaforicamente nell'Odissea per Ulisse le tentazioni che incontra sulla sua strada, e quindi ricordiamo i lotofagi, ricordiamo Calipso, ricordiamo soprattutto le sirene. Ma attraverso tutte queste tentazioni Ulisse riesce a tornare a casa, e vorremmo cercare di capire che cosa rappresentano oggi tutte queste tentazioni per un collettivo come quello del Valle, che è uscito dalla propria casa, sta cercando di tornarci. E poi parleremo del velleitarismo, dell'ellissi dei lotofagi, vero poeta? Claro, i lotofagi sono la tentazione dell'oblio, quindi di scomparire, no? Poi ci sono invece le sirene, che è la tentazione, diciamo così, più insidiosa, soprattutto quando c'è in campo una trattativa che, come era il nome che avevamo detto, velleitaria, inutile pure quella, una bellissima trattativa, perché se ci hanno buttato fuori dovrebbero ridarci il teatro, però una trattativa a me piace per quello, perché è inutile ed è sempre una poesia crudele. A me piacete voi del Valle perché fate cose inutili, belle però, molto belle, insomma. A questo proposito avevo proposto di leggere il pezzo di Ulisse sulle sirene, no? Nella traduzione di di Privitera. Appena il sole calò e sopraggiunse la tenebra, essi si giacquero vicino agli ormeggi di poppa, e lei, per mano guidandomi lontano dai cari compagni, mi fece sedere, si stese e mi chiese ogni cosa, ed io le narrai in modo giusto ogni cosa. Mi parlò allora con queste parole, Circe possente: e così tutto questo è compiuto. Tu però ascolta e fa come io ti dirò, te lo ricorderà anche un dio. Tu arriverai prima dalle sirene, che tutti gli uomini incantano chi arriva da loro. A colui che ignaro s'accosta e ascolta la voce delle sirene, mai più la moglie e i figli bambini gli sono vicini, felici che a casa è tornato. Ma le sirene lo incantano col limpido canto, adagiate sul prato, intorno è un gran mucchio di ossa di uomini putridi, con la pelle che si raggrinza. Perciò passa oltre, sulle orecchie ai compagni impasta e spalma dolcissima cera, che nessuno degli altri la senta. Tu ascolta pure se vuoi, mani e piedi ti leghino sulla nave veloce, ritto sulla scassa dell'albero. Adesso siano strette le funi, perché possa udire la voce delle sirene e goderne. Se tu scongiuri i compagni e comandi di scioglierti, allora dovranno legarti con funi più numerose. Dopoché i compagni avranno remato oltre quelle, non ti dirò da qual punto per filo e per segno quale sarà la tua rotta. Consigliati tu nel tuo animo. Io te le dico ambedue. Rupi a picco vi sono da un lato, e di contro il flutto dell'azzurra anfitrite alto rimbomba. Chiamano erranti queste rupi i beati. Underwater love, the way I feel it. siamo d'acqua. Devi sentire molto parecchio e siamo. This is it on the water love. It is so deep, so beautiful in liquid. Siamo compassion. Over me, this must be underwater love, the way I feel it. Ukiki e siamo d'acqua. Eu sei que eu não quero mais nada. I was deep in clear blue water. The sun was shining, calling me to come and see you. I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed and a smile upon your face. Você vem, você cai, você vem e cai. Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Vem aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Oh, que boca gostosa. Underwater Love, erano i Smoke City, che accompagnavano la prima lettura della puntata numero 0 di Itaca, la nuova trasmissione del Teatro Valle qui su Radio Onda Rossa. E questa era una parte, questa che abbiamo appena letto, del 12° libro dell'Odissea, nella traduzione di Privitera, ed era proprio la parte in cui Circe, la maga Circe, racconta ad Ulisse come riuscire a liberarsi e a non cadere vittima delle sirene. E anche noi, per non cadere vittime delle sirene e per tenere i piedi per terra, abbiamo deciso che, visto che l'immensa programmazione del Valle è ormai disoccupato, che non esiste più e che quindi siamo tristi e siamo in giro a cercare una casa, parleremo delle pratiche di lotta e delle lotte che ci sono in giro per l'Italia e non solo. E quindi cominciamo oggi con Mondeggi. Mondeggi che è un paesino in provincia di Firenze e che è una tenuta che è stata occupata, appunto, è fin dall'anno scorso che c'è stato un processo di riappropriazione di queste terre, finché poi quest'anno è successo qualcosa di un po' più grave che ci faremo direttamente raccontare da Massimo, che fa parte appunto del collettivo e che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Massimo. Massimo? Sì. Ciao Massimo, eccoci. Allora, buon pomeriggio a te, grazie intanto della tua disponibilità. Noi volevamo raccontare un po' in radio ai cittadini di Roma, insomma agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, che cos'è Mondeggi e che cosa sta diventando, insomma, contro cosa ci stiamo e vi state battendo in modo più preciso. Sì, allora Mondeggi è una fattoria di 200 ettari nel comune di Bagnarrifoli in provincia di Firenze, e dove ci sono appunto circa 12.000 olivi, qualche ettaro a vigneto, poi seminativi che attualmente sono incolti, una villa monumentale e delle case coloniche. Noi abbiamo cominciato a occuparci di Mondeggi a settembre-ottobre dell'anno scorso, come movimento di Terra Bene Comune di Firenze. Il movimento Terra Bene Comune nasce come costola del movimento di Genuino Clandestino nel momento in cui Monti, con il decreto Salva Italia, praticamente sdogana completamente la cultura dell'alienazione degli spazi pubblici, insomma di tutto quello che è il demanio, non solo dello Stato ma anche di tutti gli altri enti. E noi appunto in quel periodo lì facevamo delle riunioni per capire come contrastare questa svendita, e in particolare a Firenze eravamo un po' di gasisti, cioè di persone che frequentano i gruppi di acquisto solidali e di agricoltori locali che si incontravano nei mercati contadini che ci sono in città, fino a che appunto nel settembre-ottobre dell'anno scorso siamo venuti a conoscenza della condizione di Mondeggi, che è questa fattoria che è di proprietà della provincia di Firenze, data in gestione a un SRL con socio unico la provincia di Firenze. Fattoria che per insomma, qui si parla di una fattoria storica, per tantissimi anni è stata punto di riferimento di tutta la popolazione locale per andare a comprare l'olio e il vino. Poi progressivamente la mala gestione della fattoria, che purtroppo l'ente pubblico ha gestito come se fosse un bene privato dell'ente pubblico e non come un bene comune, quindi facendo consigli di amministrazione con trombate della politica e quindi totalmente incompetenti e quindi progetti sbagliati eccetera eccetera, si è arrivato a un indebitamento importante di questa SRL di circa 1 milione di euro. Al punto che fino a quando c'erano larghe disponibilità di denaro pubblico si andava avanti, poi quando il denaro pubblico ha smesso di affluire in modo copioso, allora si è deciso di mettere in liquidazione la SRL e di cercare di vendere porzioni della fattoria per trovare le risorse per pagare questo 1 milione di euro e poi liquidare e chiudere la SRL. Poi che è successo? È successo che hanno provato a fare delle vendite, però non sono mai riusciti a vendere nulla, anche perché sull'area ci sono dei vincoli paesaggistici e di destinazione che il comune di Bagnarripoli, che invece diversamente dalla provincia è sempre stato contrario alla vendita, non ha mai tolto. E allora la provincia ha sempre avuto difficoltà a trovare un acquirente, perché oltre a un impegno economico piuttosto consistente difficilmente sarebbe riuscito a speculare su quello che avrebbe comprato. Quindi per il momento la proprietà è ancora intatta. Noi a novembre dell'anno scorso, dopo il Genuino Clandestino, l'incontro nazionale che si è tenuto appunto a Firenze nei locali dell'ex Emerson, abbiamo deciso di inserire Mondeggi come uno dei luoghi che dopo una settimana dal Genuino Clandestino sarebbero stati simboli per il movimento della riappropriazione dei beni comuni. E quindi abbiamo fatto un paio di giornate di raccolta delle olive in modo clandestino, perché appunto non abbiamo chiesto il permesso alla provincia per farlo. L'anno scorso era un'annata diversamente da questa, in cui c'era gli alberi veramente stracarichi di olive, quindi sono state due belle giornate di lavoro collettivo che hanno coinvolto tantissime persone, tra le 70 e le 80 in entrambe le giornate. E poi abbiamo franto le olive, abbiamo ricavato l'olio e abbiamo cominciato, dopo averlo imbottigliato, a distribuirlo gratuitamente dietro, se le persone volevano, un'offerta come dimostrazione della ricchezza che può creare un bene comune se ben gestito. Tutto questo, tutto questo, diciamo così, in qualche modo in accordo col comune, come dicevi, nel senso che no, no, no, per no, niente? No, cioè noi avevamo parlato con il comune, ma il comune ben si è guardato dal mai appoggiarci ufficialmente, cioè noi sapevamo, perché parlando con il sindaco, con i consiglieri, così, sapevamo che il comune era sempre stato contrario alla vendita, ma non ha nessun potere il comune sul bene, se non quello dei vincoli, perché la proprietà è della provincia, quindi poi sono anche dello stesso partito, sono sia comune che provincia che regione. In Toscana, provincia di Firenze, come di Bagnarifoli, e regione Toscana sono tutte al governo PD, quindi erano contrari, ma certo non si facevano una guerra aperta e non se la fanno tuttora. E quindi noi sapevamo appunto che il comune è contrario a questa vendita, e questo ci ha sempre dato un po' magari di margine di azione, perché visto che siamo un comitato molto aperto, completamente apolitico, e che bene o male porta avanti dei concetti che oggigiorno hanno un vasto riscontro tra la popolazione locale, che infatti a Bagnarifoli sono tutti dalla parte nostra, cioè tutti sono più che contenti se noi ci battiamo come comitato per la difesa di questo bene, che è un posto bellissimo all'inizio delle colline del Chianti, un posto con un'area finissima, un bellissimo paesaggio, e quindi le persone non vogliono che diventi un posto privato, ma che continui a essere un posto dove le persone possono andare liberamente e che possibilmente torni anche a produrre senza indebitarsi. E però ecco, insomma, il fatto che il comune fosse contrario alla vendita, quantomeno ha fatto sì che probabilmente i vigili urbani non sono mai venuti a mandarci via da Mondeggio, quando oltre alla raccolta delle olive noi abbiamo fatto diverse feste lì a Mondeggio, e anche per fare delle semplici feste avremmo dovuto chiedere il permesso alla provincia, ma mai lo abbiamo chiesto, perché ci sembrava assurda sta cosa. E allora noi, diciamo, sempre clandestinamente abbiamo fatto altre feste, poi successivamente proprio una festa di primavera, una festa dell'olio, dove abbiamo fatto delle fettunche, insomma, sempre per coinvolgere e far conoscere e far innamorare nuovamente le persone di Mondeggio, che è in stato di semiabbandono. E attualmente la situazione qual è? Adesso, al momento la situazione è che dopo mesi e mesi di iniziative di sensibilizzazione e di crescita e di rafforzamento del comitato, per fine giugno, poi che cosa è successo? Scusa, un passaggio importante è stato che con la manovra degli 80 euro di Renzi gli enti pubblici si sono trovati a dover reperire ulteriori risorse per finanziare questa manovra degli 80 euro. La provincia di Firenze, per finanziare questa manovra, ha deciso di mettere in vendita tutta la fattoria di Mondeggio, mentre prima puntavano a venderne solo una parte per ricavare questo milione di euro che gli serviva per pagare il debito. Ora invece, per trovare queste risorse, mi sembra ora ammontano a circa 12 milioni quello che loro devono trovare come contributo per gli 80 euro, hanno deciso di mettere in vendita tutto, a parte la villa monumentale e una parte di bosco, però poi tutto il resto, che sono le case coloniche e tutti i terreni e l'oliveta e il vigneto, ora è tutto in vendita, e da pochi giorni è uscito anche il bando, che scade a metà ottobre. E quindi noi, messi alle strette da questa accelerazione, abbiamo deciso di opporci ancora più fisicamente al tutto il fisico che avevamo messo fino adesso, facendo una 3 giorni di festa alla fine di giugno, che è stata partecipatissima, sono passate circa 1000 persone, noi pensiamo in 3 giorni, e questa festa di 3 giorni ha lasciato noi non la chiamiamo un'occupazione, ma noi la chiamiamo un presidio contadino, perché quella non è un'occupazione abitativa, ma è un presidio dove ci sono delle persone che lavorano la terra e fanno ristrutturazione della casa, del presidio e anche del semilantistante. Quindi si è proceduto ad ampliare l'orto che già sempre in modo clandestino avevamo incominciato a fare già nei mesi precedenti, adesso che lì ci vivono in modo permanente 25 persone circa in questa casa, che sono tutti giovani, molti anche laureati o laureandi della Facoltà di Agraria di Firenze, quindi per loro è un'occasione di lavoro proprio, no? Perché insomma l'obiettivo nostro, oltre che difendere il bene comune, è anche quello di creare posto di lavoro e reddito dignitoso per il maggior numero di persone possibili. E quindi queste persone che sono lì stanno lavorando, stanno facendo, stanno mettendo in pratica l'agricoltura contadina, che è alla base del nostro progetto di recupero della, di Mondeggi. E quindi un invito a chiunque volesse venire a trovarvi e partecipare a, a quello che avete messo in piedi, alle vostre attività. Immagino che ormai è fatta, però lo potevo fare, nel senso che sicuramente c'è bisogno di braccia e di voglia anche di riscoprire certe pratiche, sì, sì, e di portarle, sì, avanti. Leggo, sì, sul... Le visite sono benvenute sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, ci sono i riferimenti per il contatto, per programmare la visita, ecco, perché non è che c'è posto per tantissime persone nella casa. Noi facciamo dell'ospitalità di una settimana per le persone che ci vengono a trovare, chiamano e si mettono d'accordo sul periodo e passano una settimana insieme a noi a lavorare lì, ecco, insomma, a fare e soprattutto i lavori agricoli e di manutenzione della casa. Massimo, io ti propongo di risentirci dopo il 13 ottobre, quando avrete qualche notizia più fresca e speriamo positiva sulla non vendita dell'ex fattoria di Mondeggi. Ti ringrazio tantissimo, grazie del collegamento e della disponibilità, e viva Mondeggi Bene Comune su Facebook, Mondeggi Bene Comune. Grazie Massimo. Bene, ciao. Grazie. Ciao ciao. All the words that I'll ever know still could not say how much I need you so in every way. I go wrong and you guide me as only you can do. Hold my hand, stand beside me. I'm counting on you. I'm counting on you, dear, from the dawn of each day. In questa rubrica di pratiche di attivismo e di quello che succede in giro per l'Italia, e io volevo raccontarvi di come può l'arte, come può un gruppo di attivisti che tramite le loro azioni artistiche di disturbo possono sostenere le cause contro appunto aziende, capitalismo, tutto ciò che insomma tende a distruggere e a creare ingiustizia sociale. Allora, pratiche, ma non solo, arte di lotta. Allora, è il 3 dicembre 1984, in India, nella città di Bhopal, escono da una fabbrica solo 40 tonnellate di isocianato di metile, dallo stabilimento della Union Carbide India. Muoiono solo 2200 persone. Nel corso degli anni, danni alla salute, inquinamento e tutte le altre schifezze che può produrre una mega azienda chimica, producono negli anni circa 15.000 vittime. I risarcimenti vengono dati, sono circa 470 milioni nel 1989, vengono dati direttamente al governo indiano, che mai li ridarà alle vittime e mai le vittime riusciranno a fare una class action. È il 2001, la Union Carbine viene acquistata dalla Dow Chemicals, che candidamente dichiara che è chiusa la vicenda dei risarcimenti e dice: pur non avendo alcuna responsabilità nell'incidente di Bhopal, Dow non ha mai dimenticato quel tragico evento e sempre contribuito a migliorare le performance di prevenzione a livello globale. La decisione a Responsible Care ci impegna ovunque operiamo nel mondo ad applicare integralmente i principi che sono alla base della protezione delle persone e delle comunità. Insomma, non vogliono dare nessun tipo di risarcimento. È il 3 dicembre 2004, è qua che interviene il nostro gruppo, che poi vi dichiaro chi sarà. E la BBC, dopo 20 anni da quell'incidente, intervista Jude Finisterra, un uomo che sostiene di essere il portavoce della Dow Chemical. Nell'intervista dice che l'azienda è disposta a cambiare atteggiamento in merito alla vicenda, che avrebbe iniziato a decontaminare il sito della fabbrica e risarcito le persone coinvolte. Dopo questa candida dichiarazione, la Dow Chemical perde circa 2 miliardi di dollari. La notizia, che dura in borsa solo 10 minuti, procura danni ingenti danni alla Dow Chemical. Da lì a 10 minuti un portavoce vero della Dow Chemical dice: no, noi non vogliamo fare nessun risarcimento, chi ha detto quelle cose è un falso. Da lì a poco rintervistano Jude Finisterra, che dichiara essere uno degli Yes Men. E cosa hanno fatto gli Yes Men e cosa fanno soprattutto gli Yes Men? Gli Yes Men creano delle false identità, dei fake, dei falsi siti, e vanno nei meeting di imprenditori, di multinazionali, dichiarandosi di essere portavoci o dirigenti di queste aziende, e fanno vedere quanto è alto il paradosso del capitalismo e quanti danni può provocare, quanto le vite umane non servono a niente, e loro candidamente con le loro bugie operano molto più verità. E gli Yes Men sono attivi da circa 15-20 anni e oltre ad essere questo duo che opera, hanno creato una rete di supporter a livello mondiale e appoggiano di solito cause anticapitaliste. Ecco come creare una falsa identità può aiutare molto le pratiche di lotta e di svelamento del reale che purtroppo il capitalismo tende, come al solito, a soverchiare le nostre vite. E viva gli Yes Men, e soprattutto, se volete saperne di più, andatevi a vedere il bellissimo film fatto nel 2009 che si chiama Gli Yes Men Fix the World. Per continuare a parlare di pratiche, anche di cose che vanno nella direzione sbagliata in un modo quantomeno incomprensibile, vi ricordiamo che oggi, anzi stasera alle 6:30, c'è il presidio davanti a Regina Coeli per l'arresto di Nunzio Derme e Marco Bucci, e a seguire a Piazza dei Sanniti alle 21 assemblea cittadina per diritto alla città. E a proposito di diritto alla città, io vorrei chiudere questa rubrica di attivismo che ancora non è finita. C'è un'altra cosa. Ma possiamo fare? Sì, abbiamo un collegamento con Amburgo. Ah, perfetto. Allora io aggiungo questa piccola notizia, siccome vengo da un viaggio intercontinentale nell'Emilia Romagna, che è un altro mondo rispetto a Lazio, mi è capitato di avere in mano un giornale, un quotidiano chiamato La Repubblica, e nelle pagine milanesi della Repubblica c'è questa notizia che, così, è sempre una tristezza dare: un altro cinema viene trasformato in centro commerciale. Si tratta dell'ex cinema Manzoni, in via Manzoni, quindi al centro proprio di Milano, e il consiglio di zona, che è un consiglio prettamente di locali, di commercianti, ha esaminato un progetto di Prelios, che dal 2008 è diventato proprietario della sala cinematografica Manzoni, che prevede un progetto di riqualificazione della galleria, della piazzetta antistante, per fare boutique di moda e negozi di informatica. I consiglieri ieri hanno detto di sì, tranne Verdi, Radicali e Ambientalisti hanno votato contro. Gli altri hanno semplicemente detto, gli altri consiglieri, beh, che dire, lo stato di, leggo testuali parole, lo stato di inutilizzo degli edifici costituisce un danno sia per la proprietà e sia per la cittadinanza. E quindi, dopo aver capito che nessuna impresa del cinema era disposta ad investire per rimettere in uso la sala, dopo aver visto che nessun'altra impresa culturale faceva progetti su quello spazio, hanno capitolato davanti a un'idea che trasformerebbe via Manzoni 40-42 in una sorta di Italy della moda. Alcune piccole richieste sono state: per favore mantenete un'area teatro almeno per 5 anni, e due speranze: almeno in questi negozi e centri commerciali trovate dello spazio per delle offerte culturali tipo librerie. E un'altra piccola richiesta, anzi speranza, perché oramai siamo a questo arrivati, la speranza è che il comune metta mano al restauro del cinema Orchidea, un'altra sala lì vicino che un gioiello abbandonato dal tempo. Quindi, signori, la cultura è sempre più a fondo, i teatri e i cinema chiudono, e anche da Milano abbiamo questa ottima notizia di centri commerciali al posto di spazi culturali. Questa è una mia piccola rubrica dal Corriere della Sera, Meneghino. Sul degrado della cultura mi sembra ne aveva parlato questo tipo Pasolini, no? Di cui si parlava prima, poi sì, ne parliamo anche dopo, no? Questo è quello che lui, sì, ha detto, si sta avverando in qualche modo. Sì, perché passo passo siamo arrivati diciamo in queste, una tappa dopo l'altra, in queste isole, in questi anfratti dove ci va a ritrovare Ulisse nel suo viaggio di ritorno verso Itaca, stiamo attraversando quello che abbiamo chiamato in questi giorni di ripresa di incontri e di riunioni il progetto di Carovana Valle. Un progetto per mantenere in piedi tutte le spinte artistiche che in questi anni hanno animato la vita culturale del Teatro Valle, e diciamo per progetti artistici intendiamo tutti quei laboratori di formazione, tutte quelle compagnie che hanno iniziato a vedersi al Valle, intendiamo anche tutto quel processo di autoformazione politica che si è svolto intorno ai Commons Caffè, alla tematica di diritto alla città. Insomma, tutta quella progettualità ci sembra che sia assolutamente vitale proprio per il cuore che vogliamo mantenere del collettivo del Valle portare avanti. Proprio per questo iniziamo vuol dire che ottobre sarà un mese in cui saremo presenti a Bruxelles il 15 e 16 con il debutto finalmente del Macello di Giobbe al Teatro Beaux-Arts di Bruxelles. In questi giorni ricordiamo che la compagnia di Fausto Paravidino è stata in prova alle ex lavanderie, uno spazio che si occupa di cultura in città e che ci ha offerto la sua sala prove per far continuare, per far crescere questo progetto, e quindi vogliamo sicuramente ringraziarli come tutti gli altri che ci hanno permesso di portare avanti le nostre riunioni, i nostri progetti in questi giorni. E poi saremo presenti nello spazio del MAM a fine ottobre, il 26, 27 e 28, con una parte dei Commons Caffè di diritto alla città, soltanto una parte, quella relativa all'urbanistica, che si chiama SMUR. Per saperne di più, ovviamente sul nostro sito www.teatrovalleoccupato.it potrete avere tutte le notizie che cercate. Siamo anche a Bucarest al Centro Culturale Carol 53 dal 24 ottobre al 31, con un workshop su chiamato Balsamic Guerriglia, riappropriazione urbana con performance rivolto a attori e attivisti. Dove, scusa? A Bucarest. Bucarest. E pure un appuntamento anche nella città di Roma, il lunedì 29 alle ore 17, per capire come possono continuare. Questa pure è una cosa molto bella, come possono continuare i processi artistici del Valle senza il Valle. Tutti, come si dice, ci vediamo per il progetto Rabbia ai giardini di Colle Oppio, al chiosco Nunzia alle 17 lunedì 29. Chiaro, non ci serve, è un incontro pubblico, sì, chiaro, non ci serve un posto a noi, non siamo ideologici. Se piove poi siamo di nuovo ideologici. Continuiamo ad andare in giro, a raccontare e a portare la nostra esperienza, in questo caso vi vogliamo raccontare quello che sta succedendo in questi giorni ad Amburgo, dove siamo presenti. E tra qualche secondo sentiremo al telefono Laura, che ci racconterà che cosa sta succedendo lì ad Amburgo. Ad Amburgo, dove c'è questo meeting europeo di artisti, attivisti e ricercatori, l'Assemblea delle Assemblee. Il titolo è The Art of Being Many, ovvero l'arte di essere in tanti, di essere molti, e si lavorerà proprio su questo, su come organizzarci quando si è in tanti, quando finalmente si ritorna a parlare tutti insieme, a confrontarci in modo orizzontale, assembleare. E quindi il programma è fitto ad Amburgo. La cosa molto interessante è che dopo i primi giorni in cui le persone presenti saranno divise in gruppi con dei focus molto precisi su argomenti diversi, per due giorni di seguito sarà organizzata un'assemblea pubblica fatta di centinaia di persone, in cui giustamente si proverà a capire come si fa a parlare e a farsi ascoltare quando si è in tanti. Ecco Laura. Pronto? Ciao. Ciao Lauretta. Ciao, ciao Laura. Mi sentite? Benissimo. Sono proprio in mezzo, mi avete beccato proprio nel mezzo dell'assemblea. Vai, perfetto. Allora raccontaci, che succede? Siamo in questo posto meraviglioso a Camp Nagel ad Amburgo. Camp Nagel sono dei e negli anni, fino agli anni 80, erano delle fabbriche dove costruivano le gru. Siamo in uno dei porti più grandi del mondo ad Amburgo. Negli anni 80 decisero di dismettere e di distruggere queste grandi capannoni, e un gruppo di artisti e di attori l'ha occupato, e nel corso di questi 30 anni, adesso vi faccio corta la storia, sono riusciti ad avere dal comune di Amburgo la possibilità di farlo diventare quello che è adesso, un centro culturale meraviglioso dove avvengono concerti, spettacoli di teatro, hanno una vera e propria stagione, e quest'anno aprono la stagione con questa assemblea delle assemblee, l'importanza di essere in molti, the importance to be many. E adesso abbiamo lavorato, ci siamo divisi in gruppo, perché questi due giorni, oggi e domani, è un po' di preparazione a quella che sarà l'assemblea, l'assembleona, per dirla in parole italiane, che sarà sabato e domenica, dove sono previste almeno più di 400 persone, e noi ci siamo divisi in gruppi di lavoro. Noi come Teatro Valle siamo in quello che abbiamo chiamato Real Fiction, la vera finzione. C'è il teatro Empress dalla Grecia, c'è l'occupazione di Londra, ci siamo, insomma, c'è il Sale da Venezia, Macao da Milano, da Barcellona, della Bosnia, esatto, la Fondazione dello Scomunes, Gruppo de Schocken, insomma c'è un po' tutto il mondo riunito. Sì, via. Direi proprio di sì. Direi, e com'è l'atmosfera, sì, Laura? L'Europa. Pronto? Sì, mi senti? Mi sento malissimo. Com'è l'atmosfera? Sì. Che aria si respira? No, molto bello. Vabbè, i tedeschi sono anche capaci di fare le cose veramente belle. Sì. Quando sei in Europa senti l'odore veramente di quello che si può fare, quando veramente le forze si mettono insieme. E quindi è molto bello, è tutto molto interessante, tutto molto tedesco. Quindi non è come da noi che si dice si vede alle 5 e cominciare alle 6, alle 5 si comincia. E quindi anche l'organizzazione e la fattibilità delle cose diventa anche più reale. E quindi l'organizzazione è un po' alla base anche della possibilità che queste pratiche diventino veramente un modo di stare e di essere. Esattamente, un po' anche quello si parla. Poi insomma bisogna, senza poi essere così radicali o categorici, ma quando si è in molti bisogna sapersi organizzare bene per fare sì che poi non ci si disperda con le energie. Senti, quindi questa è proprio la base del lavoro. Senti, ma secondo te per gli interventi previsti durante le assemblee avrete, si deciderà un tempo massimo? Ma stiamo anche su quello, c'è un gruppo che lavora proprio sul timing, su come decidere, come ci si comporta quando si è in tanti. Noi adesso stiamo proprio lavorando col nostro gruppo su come ci organizzeremo il sabato e la domenica insieme, quindi sono più o meno, abbiamo la fortuna di essere gli ultimi a intervenire e quindi potremo magari allargarci un po', però un quarto d'ora sulla tecnica, tecnopolitisch, poi un quarto d'ora sarà invece dedicato all'introduzione un po' dei vari spazi occupati culturali, appunto siamo noi, l'Empros dalla Grecia e Londra, e poi apriremo invece più alle persone, e stiamo adesso organizzandoci un po' come fare questo. Stamattina abbiamo iniziato a lavorare, quindi siamo un po' tutti eccitati da una parte, confusi dall'altra, ma insomma ci sarà tanto, una sorta di esperimento quello che sta andando in atto. Laura, speriamo che sia una delle prime questo giro qua. Laura, è bellissima, un po' fa freddo. Anche qua piove. Sì, ok. Sì, gatto che ti vuole chiedere una cosa. Laura, mi senti? Sì. Volevo dire, no, mi interessa molto questa cosa su come organizzarsi in molti, quindi immagino anche su capacità di tecniche assembleari, capacità di fare sintesi. Questo è un altro gruppo, esatto, bravo, è un altro gruppo che sta lavorando su questo e magari vi potrò aggiornare alla prossima trasmissione, perché proprio siamo divisi in diversi panel, come lo disegnano qua, e quindi c'è un altro gruppo che sta lavorando proprio su questa organizzazione specifica quando si lavora in molti. Tu lo sai bene che mi interessa molto, quindi ti prego, prendi materiali, file, note, chiedi, no? Che ci serve un sacco anche a noi. Certo. Claro, ora che non stiamo in un'assemblea ci serve molto. Noi abbiamo qua con noi il poeta García Madero, Laura, che come al solito con il suo realismo viscerale prova a tagliarci le gambe, ma noi resistiamo. Dai. Va bene, grazie, ciao, buon lavoro, saluta ciao. Tutti. Ciao. E direttamente da Amburgo abbiamo sentito Laura Verga e c'è lì anche Federica Giardini. Questo era Tipper, sarà il nostro la nostra musica comune che accompagnerà Itaca. Penso che mi sta piacendo molto mettere questi sfondi sonori, ambientazioni di questo DJ inglese, e eravamo in procinto di metterci in contatto con o Giorgina o Silvia dell'Angelo Mai Blue Motion, ma perché? Non ci hanno risposto. Ora proveremo a richiamare. Intanto Francesco ci dice perché. Sì, per continuare il discorso che abbiamo fatto prima su Carovana Valle e per spiegare che cos'è questo valle diffuso che si apre alla città e che si apre all'Europa, e cioè questi progetti artistici che esplodono e che vanno a posizionarsi nei vari spazi della città e nei vari centri culturali d'Europa che ci ospitano, che ci chiamano, vogliamo prendere l'abitudine anche di ricordare ai radioascoltatori progetti artistici ai quali teniamo particolarmente, che ci sembrano particolarmente interessanti da segnalarvi, e uno di questi è appunto, come ci ricordava prima il nostro poeta viscerale, il progetto di Blue Motion all'Angelo Mai Petrolio, che si chiama Safari Petrolio, e sarà all'Angelo Mai in via delle Terme di Caracalla 55A il 26 e il 27. E adesso, se riusciamo a metterci in contatto con qualcuno dei registi, degli attori, ci facciamo spiegare da loro perché hanno scelto di parlare di Pasolini, di cui si parlava anche prima, un Pasolini sempre attuale. Chiediamo anche a loro perché. Credo che abbiamo Giorgina in linea. Eccola, Giorgina. Ciao. Ciao Giorgina. Ciao. Eccola. Ciao. Come state? Bene, grazie. Te? Bene. In prova. Qui all'Angelo Mai in pieno allestimento. Appunto. Dello spettacolo. Appunto. Quindi ti disturbiamo solo qualche minuto perché sei stata fortunata perché il nostro poeta viscerale Madero ti voleva proprio intervistare. Hai vinto questo premio. Anche. Non sono sola, ci sono anche gli altri con me. Ah, perfetto. Diamo perfetto. Hola Giorgina, anche antes de nuestra transmisión se parlava con Maurizio Gifuni, no? Che il come si Fabrizio. Chiama? Fabrizio Gifuni. Fabrizio Gifuni. Sì, Fabrizio Gifuni, che ha doblato una pellicola su Pasolini. E anche voi fate qualcosa su Pasolini. Perché Pasolini c'è sempre? Perché è sempre attuale? Pasolini è sempre attuale perché non si riesce mai a comprenderlo fino in fondo. È come, no, quegli amori che non risolvi completamente, ti restano dentro per sempre, è un po' la stessa cosa. E quindi Pasolini, se tu pensi a tutte le cose che accadono ancora adesso e che lui aveva detto moltissimi anni fa, alla loro forte attualità e anche alla complessità irrisolta che portano con loro. È esattamente tutto quello che contiene il pensiero di Pasolini, per questo non è ancora esaurito l'interesse per lui, credo. E perché avete scelto di affrontare proprio Petrolio, che è il testo, insomma, forse il suo testamento, il testo più complesso? Cosa c'ha di affascinante questo testo e perché avete scelto questo, insomma? Allora, intanto questo testo noi l'abbiamo scelto 2 anni fa, quando ricorrevano 40 anni dall'inizio della stesura di Petrolio e 20 anni dalla pubblicazione. E l'abbiamo scelto perché in verità Petrolio è un testo che non si conosce davvero bene, un testo per certi versi poco diffuso, è un testo che molti hanno paura ad avvicinare, intendo dire i non addetti ai lavori, immaginano sempre che Petrolio sia qualcosa di distante dalla quotidianità e nella sua incompletezza molto molto difficile. Questo non è vero, o meglio, è vero in parte. Da un'altra parte Petrolio è un testo che andrebbe letto a scuola, perché contiene non solo la storia d'Italia, contiene anche tutto il legame che c'è tra il mito e il presente e anche la possibilità / necessità di interpretarlo continuamente, sia il mito che il presente, e questo a noi ha affascinato moltissimo, e dunque eccoci qua. E poi un'ultima domanda che ti faccio come poeta. Perché secondo te un poeta come Pasolini ha interpretato e ha anticipato la realtà meglio di chiunque altro, se ancora è vigente? Perché la poesia funziona meglio per te, secondo te? Ma c'è una pagina di Petrolio che utilizziamo anche nel nostro spettacolo, che secondo me risponde a questa domanda, che è la meditazione di Orfeo, in cui dice che la vera nascita è la seconda nascita. Ecco, io credo che un poeta scelga di mettere completamente in discussione la propria nascita naturale per mettere a disposizione la propria vita di tante nascite. Questo gli dà una capacità di preveggenza assoluta, e credo che il basso livello etico e culturale di questo paese sia dato proprio dal fatto che non c'è più rispetto per i poeti, che invece sono creature straordinarie. Non posso che essere d'accordo. Bene, grazie Giorgina, e lunga vita a Pasolini, lunga vita a Petrolio e lunga vita a L'Angelo Mai. Un abbraccio molto grazie, forte da Giorgina, tutti ricordiamo noi. Sì, ricordiamo gli appuntamenti, così saranno in tantissimi, sì, a venire. Domani e dopodomani alle 9 qui all'Angelo Mai. Perfetto. All'interno della Biennale di Marte Live. Saluta tutta la compagnia, gli diamo un grande abbraccio e ci vediamo domani sera. Ciao ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Sonora dei King Crimson con Starless. Abbiamo beccato un live del 1974. Siete sempre collegati con Itaca, la puntata zero di Itaca, la nuova trasmissione del Valle qui su Radio Onda Rossa 87.9. Vero. Siamo quasi agli sgoccioli. Volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire una cosa. Avevamo un collegamento con un personaggio che è rimasto dentro il Valle, precedente nella buca dell'orchestra. E il personaggio è molto legato a Itaca, perché Penelope sta là e ci aspetta. Voleva un collegamento, si è un po' arrabbiata e ha detto: vabbè, allora ci sentiamo il prossimo giovedì. E non è possibile che non mi avete telefonato subito. Ha detto che non voleva stare nel numero zero, voleva un numero più alto. Quindi Allora, visto che siamo quasi agli sgoccioli della trasmissione, volevamo ricordare un po' di appuntamenti prima di lasciarci. Prima di tutto l'appuntamento di questa sera, tra un paio d'ore alle 18:30, appuntamento sotto il carcere di Regina Coeli per il presidio, per chiedere la liberazione di Nunzio Derme e Marco Bucci, ricordiamo arrestati ieri. E poi al seguire alle 21 l'assemblea a Piazza dei Sanniti sul diritto alla città. Poi volevamo ricordare l'appuntamento di lunedì alle 17 al Parco di Colle Oppio da Nunzia per cercare di ragionare come portare avanti il progetto di Rabbia, progetto di scrittura, drammaturgia e produzione del Valle Occupato. E poi martedì 30 settembre in un orario e in un luogo ancora da definire, che però presto vi faremo sapere sia su Facebook che sul nostro sito, ci sarà l'assemblea della Comune per parlare e organizzarci in previsione del prossimo incontro che ci sarà con il Teatro di Roma, che sarà presumibilmente il 2 ottobre, ma questa data non ce l'abbiamo ancora confermata, ve la sapremo dire presto. L'incontro con i proci. Detto questo, passo la parola. Allora, prima di chiudere e per testimoniare che il nostro caro poeta comunque con le sue allusioni scava nelle nostre piccole teste, abbiamo deciso alla fine di questa puntata di parlare con qualcuno che ha frequentato l'occupazione non da occupante e che si è avvicinato in modo evidente verso la fine dell'occupazione, appunto, e che adesso sta facendo parte, viene assiduamente alle nostre riunioni, in modo particolare appunto alle riunioni della Comune. E a Paolo, appunto, volevamo fare una domanda che è la seguente, ovvero: ma ne vale ancora la pena e soprattutto perché partecipare ancora a sta assemblea di sta fondazione Valle Bene Comune? Pronto Paolo, mi senti? Ciao a tutti. Ciao. Allora, tu intanto sei un architetto, quindi non sei, diciamo così, un artista. Sono un architetto. E seguo il Valle da 3 anni, nel senso di partecipare all'assemblea ogni tanto, a venire a vedere gli spettacoli, però ultimamente quando il Valle si è trovato in pericolo, cioè, e ancora sta in maretta, e niente, tanto mi ha dato e ho voluto dare anch'io qualcosa a lui. Valle mi ha accolto per molti aspetti, mi ha accolto in momenti dove la città viveva un brutto periodo, c'era Alemanno, c'era abbastanza un orizzonte scuro, e perciò è stato un momento, una piccola luce, quella del Valle, che con lei niente, abbiamo discusso di tante cose, ma in particolare questa del bene comune e della costituzione, questo momento fondativo di una nuova istituzione. E questo, come architetto, mi ha preso fino a dire ok, ci sono, vale la pena, ma sì che vale la pena tantissimo, nel senso che nuove istituzioni si devono fondare e anzi replicare e diffondere, come dire, in tutta la città con nuove istituzioni. Dove ci sono un sacco di tanta gente che si organizza da sola, vuol fare le cose, e magari dargli un orizzonte, come dire, giusto, positivo, e allora ci sto in questo momento, sto facendo le assemblee, e anche qui a Uffici Libetta ho messo a disposizione lo spazio di un co-working, lo spazio di una piccola comunità che si è aperta al Valle, insomma, e ci fa molto piacere questo. E che cosa come dire, cosa potresti dire su queste assemblee della Comune, queste assemblee? Per adesso ne abbiamo fatta, diciamo, una. Che aria ci hai respirato dentro? Perché appunto questa cosa ti, allora, fa pensare che ne vale la pena. Ok, visto quella noce, un palazzo. E senti, dopo tanto tempo, dopo 3 anni, dopo insomma, situazioni difficili, trovarsi al Cinema Palazzo con 100-150 persone che vengono a un'assemblea, bel risultato, ancora molta tensione, non facciamo diminuire, e con piccolo appunto, cioè sono sono organizza progettazioni collaborative, faccio no, queste cose strane che si fanno per accelerare i processi decisionali, queste cose da architetti un po' strane, però ecco, forse le assemblee si devono strutturare un pochettino di più come metodo per velocizzare, perché è bello parlare tutti, sentirci, ascoltarci, però abbiamo un sacco di cose da fare, ma tante, e dobbiamo essere leggermente più efficienti. Ecco, una piccola tirata d'orecchio a tutti, insomma, perciò bravi, bravissimi, che ancora andiamo avanti. Grazie Paolo, ci vediamo per il prossimo appuntamento appunto alle officine, okay. Libetta per la ciao, campagna fondazione, un abbraccio. Ciao, alla rubrica telefonata a un comunardo. Telefonata a un comunardo, ciao Paolo. Scusate, io c'ho una proposta per velocizzare le assemblee. Invece di, che da tanto volevo farlo, invece di fare interventi, ognuno scrive una poesia. Se la gente la capisce, bene. Se no, no. Bravo. I poeti passano, gli altri no. Vai con la musica. Ci vediamo la prossima settimana, sempre alle 15. Sì, ci sentiamo. Radio Onda Rossa, sempre il solito sito www.teatrovalleoccupato.it, Facebook la stessa cosa, teatrovalleoccupato.it. Questa era Itaca, la nuova trasmissione del Valle che esce da un luogo e per andare in altri luoghi e per ritornare a Itaca, incontrando sirene, mostri, lotofagi, tentazioni del potere e altre merde simili in giro, per portare la propria arte in giro. Siamo qua a Radio Onda Rossa per raccontarvi tutto ciò che succede. Ci vediamo alle 18:30. Ciao, ciao, grazie. Il Teatro Valle Occupato, senza il Teatro Valle Occupato non manca. Grazie.